Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. I primi prototipi di treni maglev, cioè treni che viaggiano sospesi su un campo magnetico anziché su ruote, sono stati realizzati negli anni 80 su tratte di qualche centinaio di metri o poco più di un chilometro. E invece del 2002 la realizzazione del maglev che collega Shanghai al suo aeroporto lungo una linea di 33 km sospesa a pochi metri da terra, dove si toccano i 500 km orari. Tuttavia la rivoluzione promessa, quella che avrebbe dovuto vedere i treni a levitazione magnetica diffondersi un po' ovunque, permettendoci di viaggiare rasoterra a una velocità d'aereo, non è mai avvenuta, e la motivazione è drammaticamente semplice: sono troppo costosi sia da realizzare che da mantenere in funzione, considerato che anche quando non viaggiano questi treni hanno bisogno di energia elettrica per continuare a rimanere sospesi sui binari, ed è troppo costosa anche l'infrastruttura. Ebbene, tutto questo sta per cambiare grazie al lavoro svolto da Alestec, che è uno spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che in collaborazione con Girotto Brevetti ha messo a punto una nuova configurazione che permette la levitazione magnetica senza consumo di energia e senza bisogno di infrastrutture ad hoc. Qualcosa che, insomma, se manterrà le promesse, sarà davvero una rivoluzione. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, che è Lorenzo Parrotta, cofondatore di Alestec. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, come funziona questo sistema per la levitazione magnetica? Sì, immaginiamo un treno in cui al posto delle ruote possiamo sostituire dei pattini che levitano, quindi levitano a una certa distanza dal binario e interagiscono col binario grazie a una particolare configurazione di magneti permanenti disposti all'interno dei pattini. Ecco, allora adesso naturalmente senza immagini qui alla radio è molto difficile, ma quello che si verifica è come se quando il binario entra all'interno di questo pattino, come voi lo chiamate, chiudesse una sorta di circuito magnetico, per cui è come se fosse cucito al binario il pattino, cucito dai campi di forza. Esatto. Magnetici. Esatto. Sostanzialmente il vagone rimane vincolato al binario, e questo ovviamente va nella direzione della sicurezza, in quanto evita potenziali deragliamenti del vagone stesso. Ecco, quali sono i vantaggi di questo approccio rispetto alle tecnologie che esistono oggi per la levitazione magnetica? Sì, in primo luogo nella nostra soluzione sono presenti magneti permanenti, e questo consente, a differenza dei sistemi attivi in cui bisogna fornire energia per consentire al vagone di levitare, in questo caso c'è levitazione a velocità nulla e anche senza consumo di energia, in quanto un sistema totalmente passivo. Sì, certo, se no un treno come il maglev che collega Shanghai e l'aeroporto ha bisogno di consumare energia elettrica anche solo quando è fermo per rimanere sospeso sui binari, se no gli casca sopra sostanzialmente. Il vostro è un sistema che invece resta perennemente sospeso. Un altro aspetto assolutamente importante è il fatto di poter utilizzare comuni binari in acciaio, quindi immaginando anche di poter applicare il sistema a binari esistenti. Questo da un lato apre la possibilità appunto di parzialmente sostituire i treni a ruote esistenti con treni con pattini a levitazione, dall'altro ovviamente non necessita di costruire una infrastruttura apposta. E beh, questo è un vantaggio, diciamo, non da poco. Quindi non solo non consuma energia il sistema, ma in più è un sistema che consente un'introduzione graduale di mezzi a levitazione magnetica sulle stesse infrastrutture ferroviarie che già ci sono. È corretto, no? Assolutamente. Ecco, senta, poi se ho capito bene, addirittura questo è un principio generale, cioè non si applica solo a treni o tram. È un principio assolutamente generale, si applica in tutti quei casi in cui è presente un binario e un pattino che scorre lungo questo. Quindi possiamo ad esempio immaginare sistemi di movimentazione industriale, così come sistemi di movimentazione di camere in ambito cinematografico, e anche ad esempio nuovi ascensori di magnetici, ascensori di nuova generazione. Di nuova generazione, certo, di quelli che si spostano in verticale, magari anche in orizzontale, no? Come si vede in qualche grattacielo oggi. Senta, tempistiche, se non sbaglio, in realtà, anche per le ragioni che abbiamo detto, si possono usare le infrastrutture esistenti, non stiamo parlando di qualcosa di lontano. Assolutamente sì, le tappe prevedono in primo luogo la realizzazione entro l'anno di un dimostratore in scala 1 a 1 che dimostri in scala reale la tecnologia. I primi prodotti, quando potremmo vederli realisticamente? Nel giro di qualche anno. 2020 è possibile, no? Che qualcosa ci sia in giro già. Sì, parliamo di 2020, in concomitanza anche di altri progetti che sono stati annunciati per quella data, come ad esempio lo sviluppo della prima tratta Hyperloop in California, il super treno sottovuoto di cui abbiamo anche già parlato. Beh, insomma, io lo dico agli ascoltatori: sentite questo signore, presumo anche giovane, non so se posso chiedere l'età. 25. Ecco, 25 anni, con grande tranquillità parla di una roba che è poco meno dell'invenzione della ruota. Ecco, quindi in bocca al lupo e grazie di essere stato con noi. Grazie, saluto a tutti. E teneteci aggiornati, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.